Capitolo 18. Anna, disse Davy, mettendosi a sedere sul letto e appoggiando il mento sulle manine, mi sai dire dove si va quando si dorme? La gente va ogni sera nel paese del sonno, io so che questo è il posto dove io faccio le cose che sogno, ma dov'è questo luogo? E come si fa ad andarvi e a tornare senza saperne niente, in camicia da notte poi? Dov'è? Anna era inginocchiata davanti alla finestra dell'abbaino, rivolto a ponente, guardando il sole al tramonto, che sembrava un grande fiore con i petali di croco e con il cuore di un giallo ardente. Volse la testa alla domanda di Davy e rispose con aria sognante: «Oltre le montagne della luna, lungo la valle dell'ombra». Paul Irving avrebbe capito il significato di questi versi o ne avrebbe tratto per suo conto un significato, ma Davy, che, come Anna osservava spesso, non aveva un briciolo di fantasia, restò perplesso e infastidito. «Anna, credo proprio che tu stia dicendo delle sciocchezze». «Certo, ragazzo mio, non sai che sono solo le persone molto stupide a dire sempre cose sensate?» «Beh, io penso che potresti darmi una risposta sensata se io ti faccio una domanda sensata», ribatté Davy in tono offeso. «Oh, sei troppo piccolo per capire», disse Anna, ma si vergognò subito di averlo detto. Non era lei stessa che, ricordando analoghi rimbrotti subiti negli anni dell'infanzia, si era solennemente ripromessa che mai e poi mai avrebbe detto a un bambino che era troppo piccolo per capire? Eppure, eccola lì, ora, tanto profondo è a volte l'abisso che separa la teoria dalla pratica. «Beh, faccio del mio meglio per crescere», disse Davy, «ma non è una cosa che si possa fare molto in fretta. Se Marilla non fosse così avara della sua marmellata, credo che potrei fare molto prima». «Marilla non è avara, Davy», disse Anna severamente. «È segno di ingratitudine da parte tua dire una cosa simile». «C'è un'altra parola che vuol dire la stessa cosa e suona meglio, ma non me la ricordo in questo momento», disse Davy, aggrottando la fronte serio serio. «Ho sentito Marilla in persona dire che lei lo era l'altro giorno». «Se intendi economia è una cosa molto diversa. L'essere economa è anzi una dote eccellente in una persona». «Se Marilla fosse stata avara, non avrebbe preso te ed Dora quando la vostra mamma morì. Ti sarebbe piaciuto vivere con la signora Wiggins? Puoi scommettere di no?» Davy manifestò un'assoluta decisione sull'argomento. «E non voglio nemmeno andare a vivere con lo zio Richard. Preferisco vivere qui, anche se Marilla è quella parola difficile quando si tratta di marmellata. Perché ci sei tu, Anna. Senti, perché non mi racconti una storia prima di andare a letto? Non voglio una favola. Vanno bene per le bambine, penso. Io voglio qualcosa di emozionante, con sparatorie, morti, una casa che si incendia e altra roba del genere». Per fortuna Marilla la chiamò in quel momento dalla sua stanza. «Anna, Diana sta facendo segnalazioni a tutto spiano, faresti meglio vedere cosa vuole». Anna corse all'abbaino di Levante e nel crepuscolo vide dei lampi di luce provenire dalla finestra di Diana, a gruppi di cinque, il che, nel loro vecchio codice infantile, significava «Vieni subito perché ho qualcosa di importante da raccontarti». Anna si gettò sul capo il suo scialle bianco e corse attraverso il bosco stregato e il pascolo del signor Bell fino a Orchard Slope. «Ho buone notizie per te, Anna», disse Diana. «Con la mamma sono appena tornata da Carmody e ho visto Mary Sentner di Spencervale nel negozio del signor Blair. Dice che le vecchie signorine Cope in via dei conservatori hanno un piatto ovale di porcellana cinese e che le sembra assolutamente identico a quello che ha visto alla nostra cena. Dice che è molto probabile che lo vendano, dato che Martha Cope è famosa per essersi sempre disfatta di qualunque oggetto potesse vendere. In caso contrario c'è un altro piatto da Wesley Keeson a Spencervale e sa che lo venderebbe volentieri, ma non è certa che sia dello stesso tipo di quello di zia Josephine». «Ah, andrò a cercarlo a Spencervale domani stesso», disse Anna con decisione. «E tu verrai con me. Mi toglierò un peso dal cuore perché dopodomani devo andare in città. E come posso affrontare tua zia Josephine senza un piatto di porcellana cinese? Sarebbe ancora peggio di quando dovetti confessare d'essere saltata sul letto nella stanza degli ospiti». Le due ragazze risero a quel lontano ricordo al cui riguardo, se qualcuna delle mie lettrici fosse curiosa, dovrà rileggersi il primo libro della storia di Anna. Il pomeriggio dell'indomani, le ragazze partirono per la loro spedizione a caccia del piatto ovale. C'era una quindicina di chilometri fino a Spencervale e la giornata non era delle più adatte a una gita. Era molto calda, senza un filo di vento e la polvere per la strada era tale, come poteva prevedersi, dopo 6 settimane di siccità. Oh, come vorrei che venisse a piovere presto, sospirò Anna. Tutto è così arido e secco. I poveri campi mi fanno pena e gli alberi sembrano tendere le braccia chiedendo pioggia. In quanto al mio giardino, mi rattrista ogni volta che vi entro. Forse non dovrei lamentarmi per il giardino quando a soffrirne sono tutti raccolti. Il signor Harrison dice che i suoi pascoli sono così riarsi che le mucche non riescono a trovare neanche una boccata d'erba e che lui si sente colpevole di crudeltà nei confronti degli animali ogni volta che li guarda negli occhi. Dopo un viaggio piuttosto uggioso, le ragazze giunsero a Spencervale e voltarono per la via dei conservatori. Una strada larga, verde e solitaria, dove i ciuffi d'erba, tra i solchi delle ruote, dicevano che passava poca gente. Lungo la maggior parte del percorso era bordata da giovani abeti, piantati fitti fitti, i cui rami si protendevano su di essa, mentre qua e là, attraverso squarci improvvisi, si vedevano i campi attorno alle fattorie di Spencervale o distese di stoppie punteggiate di splendidi fiori. Perché la chiamano Via dei Conservatori? Chiese Anna. Il signor Allan dice che l'hanno chiamata così in base allo stesso principio secondo cui si chiama boschetto un luogo perché non vi crescano alberi, disse Diana sorridendo. Infatti in questa strada vivono solo le signorine Cope e il vecchio Martin Bouvier, che è liberale. Il governo conservatore creò in tutta fretta questa strada quando era al potere, giusto per far vedere che era capace di fare qualcosa. Il padre di Diana era liberale, ragion per cui lei e Anna non discutevano mai di politica. La gente di Green Gables aveva sempre votato per i conservatori. Finalmente, le ragazze giunsero alla vecchia casa delle signorine Cope, un luogo così pulito che perfino Green Gables ci perdeva al confronto. La casa era vecchiotta, situata su un pendio, il che aveva reso necessaria da un lato la costruzione di un basamento di pietra. La casa vera e propria, gli edifici circostanti, imbiancati a calce, erano di una perfetta, accecante bianchezza e non si vedeva nemmeno un'erbaccia nel giardino davanti alla cucina, circondato a sua volta da una palizzata bianca. Le tapparelle sono tirate giù, disse Diana perplessa. Credo che in casa non ci sia nessuno, il che si dimostrò esatto. Le ragazze si guardarono incerte sul da farsi. Non so proprio che fare, disse Anna. Se fossi sicura che il piatto è quello giusto, non mi importerebbe d'aspettare finché tornano a casa, ma se non lo è, potrebbe essere troppo tardi per andare poi da Wesley Keyson. Diana accennò a una piccola finestra quadrata. Quella è la finestra della dispensa, sono sicura, disse, perché questa casa è esattamente come quella dello zio Charles a Newbridge, e quella è la finestra della loro dispensa. La tapparella non è abbassata, sicché se ci arrampichiamo sul tetto di quel capanno, potremmo sbirciare all'interno della dispensa e vedere se c'è il piatto. Credi che ci sia qualcosa di male? No, non credo, decise Anna dopo aver debitamente riflettuto, perché a spingerci non è una vana curiosità. Definito in tal modo questo importante principio etico, Anna si preparò a salire sul capanno, una costruzione con il tetto in canniccio e fatto a punta, che in tempi lontani era stato adibito a dimora per le anatre. Le signorine Cope avevano smesso di tenere anatre perché erano animali troppo sudici e il capanno non era più stato usato da parecchi anni se non come pollaio per le galline alla cova. Anche se scrupolosamente imbiancato, era decrepito e pericolante e Anna si sentì piuttosto incerta quando vi si arrampicò sopra, puntellandosi a un barilotto collocato su una cassa. Temo che non regga il mio peso, disse mettendo piano piano il piede sul tetto. Appoggiati al davanzale della finestra, la consigliò Diana, e Anna fece proprio così, ed ecco che con profonda gioia, sbirciando attraverso il vetro, vide un piatto ovale in porcellana cinese esattamente simile a quello di cui era alla ricerca, sullo scaffale di fronte alla finestra, e fu tutto quello che vide prima che sopravvenisse la catastrofe. Nel suo entusiasmo, Anna dimenticò la natura precaria del suo appoggio, cessò incautamente di appoggiarsi al davanzale, si abbandonò d'impulso a un breve saltello di giubilo e un momento dopo precipitava rovinosamente entro il tetto fino alle ascelle. E lì restò, del tutto incapace di liberarsi. Diana volò all'interno del capanno delle anatre e, afferrando la sua sfortunata amica per la vita, cercò di tirarla giù. «Oi, oi, lascia stare!» gridò la povera Anna. «Ci sono delle lunghe schegge di legno che mi si conficcano nella pelle! Guarda invece se riesci a mettermi qualcosa sotto i piedi in modo che riesca a tirarmi su!» Diana premurosamente trascinò dentro il barilotto cui abbiamo già fatto cenno e Anna trovò che era alto quel tanto necessario a fornirle un supporto per i piedi. Non riuscì, tuttavia, a liberarsi. «Non potrei provare a tirarti fuori arrampicandomi su anch'io?» suggerì Diana. Anna scosse la testa sconsolata. «No, le schegge mi fanno troppo male. Se riuscissi a trovare una scure, potresti tirarmi fuori facendo a pezzi il tetto. Oh, povera me! Comincio davvero a pensare di essere nata sotto una cattiva stella!» Diana cercò volonterosamente, ma non riuscì a trovare alcuna scure. «Dovrò andare a cercare aiuto», disse ritornando da Anna. «No, per carità, non farlo!» ribatté Anna con foga. «Se lo fai, questa storia sarà risaputa da tutti e mi vergognerò al punto di non poter più mostrare neanche la faccia. No, dobbiamo solo aspettare che le signorine Coppo tornino a casa e vincolarle a tenere il segreto. Loro sapranno dove lascia e mi libereranno. Non sto poi così scomoda finché resto perfettamente immobile. Non scomoda dal punto di vista fisico, intendo. Chissà quanto pensano che valga questo capanno, le Coppo. Dovrò pagare il danno, ma non me ne importa nulla, fossi almeno sicura che capiranno la vera ragione per cui sono andata a sbirciare dalla finestra del tinello. Il mio unico conforto è che il piatto ovale è proprio del tipo che sto cercando e se le signorine Coppo me lo venderanno mi rassegnerò facilmente a quanto è accaduto. E se le signorine Coppo non tornano a casa fino a stasera o fino a domani? Fece Diana. «Se al tramonto non saranno tornate, dovrai andare a cercare aiuto», disse Anna con riluttanza. «Ma non devi andare a meno che non ve ne sia assoluto bisogno. Oh, povera me, questa è davvero una situazione terribile. Non me la prenderei tanto per le mie disgrazie, se fossero romantiche, come lo sono sempre quelle delle eroine della signora Morgan. Ma al contrario, esse sono semplicemente ridicole. Pensa un po' che cosa penseranno le signorine Coppo quando entreranno nel cortile e vedranno la testa e le spalle di una ragazza spuntare dal tetto di questo capanno. Ascolta, è il rumore di un carro? No, no, Diana, credo che sia un tuono. Ed era proprio un tuono, senza alcun dubbio. Diana, dopo aver fatto in fretta un giro attorno alla casa, tornò per annunciare che una nuvola nerissima stava formandosi rapidamente a settentrione. «Mi sa che sta per arrivare un bel temporale!» esclamò costernata. «Oh, Anna, che faremo?» «Dobbiamo prepararci», rispose Anna tranquillamente. Un temporale era una bazzecola al confronto con quanto era già accaduto. «Meglio portare cavallo e calesse al riparo. Per fortuna il mio parasole è nel calesse. Tieni! Prendi il mio cappello. Marilla mi ha detto che era un'oca mettermi il mio cappellino più bello per venire in via dei conservatori e aveva ragione, come sempre. Diana slegò il pony e lo condusse nella stalla, proprio mentre cominciavano a cadere le prime gocce di pioggia. Rimase lì a sedere e a guardare il rovescio che seguì, e l'acqua veniva giù così fitta e pesante che a malapena riusciva, attraverso quel diluvio, a vedere Anna che teneva coraggiosamente il parasole aperto sulla testa nuda. Di tuoni non ve ne furono molti, ma per circa un'ora diluviò allegramente. Di tanto in tanto Anna inclinava l'ombrello e faceva un cenno incoraggiante con la mano all'amica, ma di conversazione a quella distanza e in quelle circostanze non c'era neanche da parlarne. Alla fine la pioggia cessò, venne il sole e Diana si avventurò tra le pozzanghere nel cortile. «Ti sei bagnata molto?» chiese ansiosamente. «Oh, no!» le rispose Anna tutta allegra. «Testa e spalle sono del tutto asciutte e la gonna è solo un po' umida dove la pioggia si è infiltrata tra le lamiere. Non compatirmi, Diana, perché non mi sono affatto impressionata. Continuavo a pensare a tutto il bene che farà questa pioggia e a come sarà felice il mio giardino e a immaginare quel che avrebbero pensato i fiori e i boccioli alle prime gocce. Mi sono figurata un dialogo molto interessante tra gli astri e i fiori di pisello e la canaria selvatica nei cespugli di lilà e lo spirito protettore del giardino. Quando sarò a casa ho intenzione di scriverlo. Vorrei avere una matita e un foglio di carta per scriverlo ora, perché credo, che mi dimenticherò il meglio prima di essere arrivata a casa. La fedele Diana aveva una matita e scoprì un foglio di carta da pacchi nel capanno dove era il calesse. Anna ripiegò il parasole gocciolante, si rimise il cappello, tese il foglio di carta su una sicella di legno che Diana le aveva porto e scrisse il suo idillio campestre in condizioni che ben difficilmente si sarebbero potute considerare favorevoli alla letteratura. Ciò nonostante, il risultato fu assai grazioso e Diana ne fu rapita quando Anna glielo lesse. Oh, Anna, com'è carino! È proprio carino! Mandalo al Canadian Woman, ti prego! Anna scosse la testa. Oh no, non va bene per loro, non c'è la trama, capisci? È solo una serie di fantasie. Mi piace scrivere cose del genere, ma è ovvio che non sono adatte alla pubblicazione, perché gli editori insistono nell'intreccio. Così almeno dice Priscilla. Oh, ecco finalmente la signorina Sarah Copp. Per favore, Diana, corri a spiegarle tutto. La signorina Sarah Copp era una donnina minuta, vestita di un frusto abito nero con un cappello scelto non tanto per vana frivolezza quanto per solide qualità di durata. Parve evidentemente esterrefatta al vedere lo strano spettacolo nel suo cortile, ma quando ebbe udito le spiegazioni di Diana, manifestò la sua piena comprensione. In tutta fretta aprì la porta sul retro, esibì la scure e con pochi colpi abili trasse d'impaccio Anna. Quest'ultima, un poco stanca e irrigidita, piombò giù all'interno della sua prigione e ne emerse quindi riconoscente e finalmente libera. Signorina Copp, disse con calore, le assicuro che ho guardato dalla finestra del tinello solo per sapere se possedeva un piatto ovale di porcellana cinese. Non ho visto nient'altro, non ho cercato altro. Benedetta ragazza, va tutto bene. Disse amabilmente la signorina Sara. Non si preoccupi, non c'è nulla di male. Grazie al cielo, noi Copp teniamo il tinello sempre presentabile e non ci curiamo di chi ci guarda dentro. In quanto al vecchio capanno delle anatre, sono contenta che sia andato in pezzi, così almeno ora Marta si convincerà a farlo demolire. Non l'ha mai voluto fare, sempre con l'idea che potesse tornare utile una volta o l'altra, e io ho dovuto imbiancarlo ogni estate. Ma discutere con Marta è come discutere con un palo. Oggi è andata in città. Ah, l'ho accompagnata in calesse fino alla stazione. E così lei vuole comprare il mio piatto? Bene. Quanto ha intenzione di pagarlo? $20, disse Anna, che in quanto a senso degli affari non era certo in grado di stare alla pari di una coppa o non avrebbe offerto quel prezzo fin dall'inizio. Bene, vedrò. Disse la signorina Sara prudentemente. Per fortuna quel piatto è mio, altrimenti non oserei mai venderlo in assenza di Marta. In realtà penso che farà un mucchio di storie. È Marta qui, la padrona del vapore, glielo assicuro. Io sono molto stanca di essere sempre dominata da lei. Ma entrate, entrate. Dovete essere davvero stanche e affamate. Per il tè farò del mio meglio, ma vi avverto, non aspettatevi altro che pane e burro e qualche cetriolino. Marta ha chiuso a chiave tutti i dolci e il formaggio e le marmellate prima di partire. Lo fa sempre perché dice che io sono troppo prodiga nell'offrirli quando viene qualcuno. Le ragazze erano così affamate da fare onore a qualunque cibo e apprezzarono molto l'ottimo pane burro e i cetriolini della signorina Sara. Quando ebbero finito di prendere il tè, la signorina Sara disse: Non so decidermi a vendere quel piatto, ma vale $25. È molto antico. Diana diede un leggero calcio al piede di Anna sotto il tavolo che significava non accettare, te lo lascia per 20 se insisti. Ma Anna non voleva correre rischi riguardo a quel prezioso piatto, accettò subito di pagare i $25 e la signorina Sara parve quasi rammaricarsi di non averne chiesti 30. Beh, penso che può averlo allora. Ho bisogno di economizzare tutto il denaro che posso in questo momento. Il fatto è. La signorina Sara gettò indietro la testa con aria d'imprudenza mentre una vampa d'orgoglio le arrossava le guance smunte. Il fatto è che sto per sposarmi con Luther Wallace. Lui mi voleva già 20 anni fa. A me piaceva molto, ma allora era povero e il babbo lo mise alla porta. Forse non avrei dovuto essere così remissiva e lasciarlo andare, ma ero timida, il babbo mi incuteva paura e poi non sapevo che di uomini ce n'erano così pochi. Quando le ragazze lasciarono la casa, Diana reggeva le redini del calesse e Anna teneva premurosamente in grembo il tanto desiderato piatto. Via dei Conservatori, tutta verde e rinfrescata dalla pioggia, fu ravvivata da uno scoppio di risa giovanili. Farò ridere tua zia Josephine con la strana e avventurosa storia di questo pomeriggio, quando domani andrò in città. Abbiamo avuto una dura esperienza, ma è tutto finito ormai. Ho il piatto e la pioggia ha fatto scomparire la polvere, per fortuna. Perciò ho tutto bene quel che finisce bene. Non siamo ancora a casa, disse Diana con una buona dose di pessimismo. E non si sa che cosa può accadere finché non ci saremo arrivate. Tu sei proprio il tipo da avere avventure, Anna. Avere avventure è una cosa normale per certa gente, disse Anna severamente. O uno c'è nato oppure non c'è nato. Ecco tutto.